assieme a Progresso Ozzano, che è un gruppo consiliare appunto di Ozzano dell'Emilia, abbiamo mostrato come c'è una relazione tecnica del comune di Ozzano commissionata nel 2020, da dove si evince che la caserma ha bisogno di 751.000 euro di interventi strutturali, carenza dei materiali, locali inadeguati, inadatti. Il progetto all'epoca era quello di trasferire delle classi di una scuola media temporaneamente, però ecco, dalla relazione tecnica, al di là dei lavori per renderla una scuola, però c'erano proprio problemi strutturali. Questa cosa noi crediamo che sia molto grave, perché poi la prefettura in realtà non ha fatto nulla in questi mesi, quindi gli spazi sono degradati, inadeguati, fatiscenti. Infatti i primi migranti saranno ospitati nei container che sono minuscoli peraltro, quindi in condizioni comunque del tutto disumane e degradanti appunto per le persone che ci arriveranno. Sul lato progettuale invece abbiamo evidenziato come il contratto con Nova Facility non prevede nessun progetto di integrazione, nemmeno una scuola di italiano per capirci, quindi crediamo che la situazione sia assolutamente grave. Sulla struttura appunto anche i consiglieri di Ozzano riferivano che sono semplicemente state fatte delle pulizie preventive, però appunto ci sono poi anche dei pericoli per i migranti ospitati? Ma dalla relazione tecnica si evince appunto che i locali non sono agibili, perché sono stati fatti interventi nei decenni scorsi con materiali scarsi e scadenti, proprio così vengono definiti, e quindi noi crediamo che un pericolo ci sia dal momento in cui appunto l'edificio dove poi saranno inseriti i migranti nelle prossime settimane è in queste condizioni. Dalla vista, dal sopralluogo che è stato fatto dai consiglieri stessi, emerge comunque sì, una situazione degradata, spazi dove non è stato fatto nulla, ci sono problemi all'impianto elettrico che non sappiamo se sono stati risolti, però appunto per adesso si tratta di ospitare in qualche container, però i container saranno una minima parte, perché nell'idea che sta alla base di questa apertura del CAS si è passati da 100 persone ospitate a 300, e poi pare che saranno molti di più in realtà, perché si vocifera già di altre aree della caserma da sistemare, ecco, e da adibire appunto a dormitorio di fatto per i migranti, perché questo sarà, perché non c'è nient'altro in quel luogo. Ecco, ieri anche l'ANCI ha espresso perplessità su questa soluzione. Perché a tuo avviso si punta a questi maxi centri invece che gestire l'accoglienza in un modo diverso? Perché c'è un disegno politico dietro queste scelte. Io credo che la logica dei grandi centri sia fallimentare assolutamente, non solo per il rispetto dei diritti umani, ma anche per l'efficacia che ha nell'integrare e nel garantire poi anche i propri diritti basilari, anche il percorso di avvicinamento ad ottenere i documenti. Il governo vuole creare tensioni sociali nei comuni, perché quando in un comune come quello di Ozzano, che ha 14.000 abitanti, apre una struttura del genere senza nessun progetto, è chiaro che immette in un tessuto sociale una tensione che viene scaricata sui comuni, sui cittadini che vivono lì, e l'insicurezza è generata dalla mancata accoglienza e non dall'accoglienza, perché l'accoglienza è quando è fatta come si deve, con i progetti di accoglienza diffusa, quindi rispettando anche i diritti delle persone, ma anche dando la possibilità a loro di emanciparsi, non genera insicurezza e tensione. Ma il governo non vuole accogliere, il governo vuole continuare a usare i corpi delle persone migranti a fini propagandistici, e quindi quando si creeranno situazioni di tensione perché i livelli di accoglienza sono inaccettabili, chiaramente questi problemi verranno strumentalizzati, come è stato fatto per il CAS Mattei e in tante altre situazioni.